La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta, che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una commissione di deputati e senatori costituita per le questioni regionali nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. L'articolo 126 riguarda ancora le regioni e riguarda in particolare lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta. Per completezza geometrica del sistema è infatti previsto che con decreto motivato del Presidente della Repubblica può essere disposto lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta quando abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Ovviamente si tratta di misure eccezionali, misure che possono essere disposte anche per ragioni di sicurezza nazionale. A quel punto, venuto meno il Consiglio regionale, si disporranno nuove elezioni. Questa misura eccezionale non è stata mai adottata fino ad ora nel nostro Stato e tuttavia è una misura che necessariamente deve essere prevista in Costituzione, perché la Repubblica è una e indivisibile, come ricorda l'articolo 5. Ecco allora che una singola regione non può andare contro gli orientamenti fondamentali dello Stato ed ecco che, quando una regione ponga atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni, deve essere lo Stato ad intervenire per ricondurre il tutto ad unità nazionale.